105 Waka Cha. 1, 2, 3, chi ci ascolta è un cretino. 1, 2, 3, 105 Waka Cha. Noi rispondiamo, direttore va a cagare. 1, 2, 3, 105 Waka Cha. 1, 2, 3, chi ci ascolta è un cretino. 1, 2, 3, 105 Waka Cha. Noi rispondiamo, direttore va a cagare.